Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata a tutti. E a proposito di ringraziamenti, Andrea Rui e Carla Castelli ci hanno mandato del materiale prezioso di cui faremo uso sicuramente. Maria Violino, la ringrazio, ha espresso qualche riserva sull'uso di un termine di cui mi sono servito la volta scorsa. Ne parliamo. E quell'anonimo ascoltatore che ci ha mandato un esempio di raro genere merceologico, le tavolette di banane seccate con lo zucchero, grazie, lo ringraziamo di cuore anche lui.